GR24, il sole 24 ore. Parole rassicuranti della Merkel sulla Grecia e sulla buona strada, borse col segno più. Berlusconi-Tremonti, oggi il faccia a faccia della schiarita. Operai Fiat in piazza, traffico in tilt a Roma, Alemanno chiede di fermarli. Riesame Tarantini scarcerato nella notte, l'inchiesta passa a Bari, il premier forse sarà indagato. Una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. In Grecia in primo piano, perché? Perché hanno parlato questa mattina sia Papa Andreu, che è in visita a Berlino, e sta parlando Angela Merkel. Allora partiamo proprio da qui, dalla novità dell'ultima ora, in collegamento, e lo ringraziamo, con Vittorio D'Arolda. Vittorio, buona giornata. Buona giornata a voi. Sì, qui la situazione naturalmente è stata ben accettata, questa prima indiscrezione sulla Merkel, che ha dato una indicazione di che la Grecia è sulla buona strada, ma intanto il paese è bloccato, sono 48 ore di sciopero dei trasporti, quindi Atene è completamente paralizzata, anche i tassisti si sono aggiunti a questo sciopero, che ha paralizzato sia il sistema interno sia appunto quello verso le isole. A questo punto c'è stata una conferenza stampa del ministro delle finanze Venizelos, che ha tentato di rassicurare, ma ha detto che Atene troverà entro ottobre, approverà tutte le misure di austerity, quelle che la Troica chiede, altrimenti non darà la sesta tranche, appunto Atene non avrà soldi per pagare pensioni e stipendi. Quindi c'è molta attenzione per questa sera, quando il Parlamento dovrà approvare la prima di queste manovre, la più difficile, la più impopolare, quella che introduce una tassazione sulle case, e quindi in qualche modo è una ICI greca che torna pesantemente nelle tasche dei greci. Vittorio, dunque, un paese che protesta oramai da giorni, un paese praticamente paralizzato, e Papandreou, che a Berlino stasera incontra la Merkel. Oggi hanno parlato tutti e due davanti alla Confindustria tedesca, prima ha parlato Papandreou, poi adesso, in questo momento, l'abbiamo detto, sta parlando la Merkel. Parole rassicuranti, Papandreou ha detto: noi stiamo prendendo in prestito risorse per poi ripagare, ma Papandreou ha anche qualche problema interno? Sì, esattamente, ci sono una fronda interna al suo partito, il partito PASOK, che è il partito di maggioranza di governo, che ha 6 deputati che minacciano di non votare appunto questa nuova stretta, questa nuova manovra che dovrebbe appunto garantire 2 miliardi e l'avanzo primario nel 2012. Se non ci sono questi 6 voti, sono problemi seri. Si parla addirittura di una crisi e di una possibile ritorno alle elezioni anticipate, perché lui ha solo 154 voti su 300 e la maggioranza è di 151, quindi è veramente un voto molto importante. Grazie a Vittorio D'Arolda del Sole 24 Ore per questi approfondimenti. Intanto gli indici europei, lo avete sentito, sono positivi. C'è stata una partenza sprint e reggono ancora, vero Valeria De Rosa? Buongiorno Anna, a te e ai nostri ascoltatori. Allora sì, non solo reggono, ma i listini accelerano, quindi spingono sull'acceleratore. Parigi guadagna il 3,88%, Francoforte il 3,84%, resta leggermente più indietro Londra, che guadagna il 2,37%, molto bene anche Milano, dove il FTSE MIB guadagna il 3,27% e il FTSE All Share il 3,12%. Non solo i listini fanno affidamento su questo fondo salva stati, sulla risoluzione della crisi finanziaria, ma hanno accolto positivamente sia le parole di Papandreou sia le parole della Merkel. In evidenza il settore bancario un po' su tutte le piazze del vecchio continente, vanno molto bene i titoli delle banche francesi, ma anche a piazza Affari il miglior titolo resta UbiBanca, che guadagna il 5,85%, Intesa San Paolo guadagna il 5,84%, molto bene anche la Banca Popolare di Milano, che oggi vedrà il consiglio di amministrazione per decisioni molto importanti, tra cui quella sulla governance e sull'aumento di capitale, e poi via via tutti gli altri titoli bancari. Resta in fondo al listino solo la Banca Popolare Emilia-Romagna, che cede un punto percentuale, insieme a Parmalat, che cede lo 0,24%, è l'unico titolo in rosso. Per quel che riguarda i cambi, si rafforza leggermente l'euro sul dollaro, 1,3532 in questo momento, ed è tutto. Grazie Valeria, abbiamo parlato di Grecia in apertura, di questo default purtroppo sempre più vicino. Intanto c'è chi grazie ad un default è poi riemerso dalla crisi. Focus sull'Islanda con la nostra Anna Marino. Io vivo e lavoro a Reykjavik. Il vento sta soffiando nella direzione opposta, cioè dal vulcano verso il continente europeo. Era il maggio del 2010, deruttò il vulcano che fece puntare di nuovo sull'isola del ghiaccio i riflettori dell'Europa. Una nube di cenere paralizzò i trasporti del vecchio continente. L'Islanda era appena a metà del percorso che la sta portando a risollevarsi dalla bancarotta del 2008. Shock dopo un'epoca d'oro, grazie alla mossa della privatizzazione del settore bancario, che portò a triplicare il livello di benessere degli islandesi, a far lievitare del 900% la borsa islandese e crescere il PIL del 5,5%, e poi di colpo la corona a perdere l'85% del suo valore di cambio sull'euro e le banche ad aver accumulato un enorme debito, 10 volte il PIL islandese. Oggi per l'FMI, che nel 2008 concesse al paese un prestito da 2,1 miliardi di dollari, dopo tagli severi e aumenti delle tasse, l'Islanda è sulla strada giusta. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché il paese ha davanti svolte decisive, come spiega la giornalista islandese Thora Arnorsdottir. L'inflazione si è dal 18% al 5%. Il tasso di disoccupazione è da noi 7-8%, ma c'è da dire che nel senso di ricostruire sta andando molto lentamente. Il nuovo governo, che è stato eletto nel 2009, ha deciso di fare una richiesta per entrare nell'UE, perché con la nostra valuta, la corona islandese è la valuta più piccola del mondo, è più piccola del Disney dollar, e quindi la gente guarda l'euro. Ma adesso, quando l'euro è in caos, ci sono voci che dicono forse non vale la pena, guarda. E adesso in Italia, con il faccia a faccia Tremonti-Berlusconi previsto in giornata, il Corriere.it aveva anticipato che era in corso da mezzogiorno, invece in realtà ci sarà nel corso della giornata. Ci aggiorna in diretta da Roma Vincenzo Miglietta. Vincenzo, allora. Sì, buongiorno, un incontro, quello tra il Premier e il responsabile del Tesoro, finalizzato non solo ad un faccia a faccia sulle misure per lo sviluppo, ma anche ad un chiarimento sull'intera strategia di politica economica dell'esecutivo. Quanto al primo tema, Tremonti porterà al Presidente del Consiglio una serie di proposte per la crescita da sottoporre poi domani a banchieri ed imprenditori, liberalizzazioni, credito di imposta per le imprese, detassazione finalizzata a rilanciare le infrastrutture e ulteriore stretta sull'evasione fiscale. Altro capitolo, la richiesta che viene da gran parte del Popolo della Libertà di una maggiore collegialità sulle scelte economiche. Di fatto Berlusconi farà pressioni sul ministro dell'economia perché si confronti maggiormente con il resto della coalizione di governo. Stiamo lavorando nella giusta direzione, dice comunque dalla Lega il capogruppo Riguzzoni. Sentiamo. Soprattutto ci auguriamo che possa essere un incontro fruttuoso per dar vita a quelle riforme, a quelle misure di rilancio dell'economia che tanto servono a tutti noi, sia alle famiglie che alle nostre imprese. Ma queste sono questioni in parte interne al PDL e di sicuro interno al governo. Quello che a noi interessa è che vengano fatte delle misure reali per il rilancio della nostra economia. Fortemente critica l'opposizione, la crisi economica, spiega Bersani, è pesante e questo governo non è all'altezza. Ascoltiamo allora Bersani. Noi siamo davanti a dei problemi molto seri, dei punti interrogativi piuttosto drammatici. Ecco, e che nell'insieme non ci sia la consapevolezza di questo e quindi non ci sia una risposta a questo, resta il nostro problema. Resta il nostro problema. Io quello che voglio dire è che noi intanto stiamo lavorando comunque. Berlusconi non vuole schiodarsi, si prende la responsabilità, noi stiamo lavorando. Incontro Berlusconi-Tremonti dunque, che deve ancora iniziare, si dovrebbe tenere con molta probabilità a Palazzo Grazioli. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo, e ci sono ovviamente le inchieste a dominare queste ore, perché è arrivata una clamorosa novità nella notte da Napoli. Silvio Berlusconi non sarebbe vittima di un ricatto, ma avrebbe istigato Giampaolo Tarantini a mentire ai magistrati. È arrivata ieri sera, 5 minuti prima della mezzanotte, la decisione del Tribunale del Riesame di Napoli che ribalta il ruolo del Premier nel caso Tarantini. Da testimone, parte offesa, ha indagato. Il Riesame ha ritenuto sussistente l'ipotesi di istigazione a mentire davanti all'autorità giudiziaria, ipotesi per cui sarebbe chiamato in causa il Premier che, insieme al direttore dell'Avanti, Walter Walter Lavitola avrebbe indotto Tarantini a rendere false dichiarazioni nell'inchiesta di Bari sulle escort. Ecco perché questa è la seconda decisione del riesame: l'inchiesta deve essere trasferita per competenza a Bari. Spetterà a questa procura dunque procedere all'iscrizione di Berlusconi nel registro degli indagati. Per Tarantini, terza novità, è stata disposta la scarcerazione. Il tribunale ha infatti annullato l'ordinanza di custodia cautelare a carico dell'imprenditore e della moglie, confermandola invece per Lavitola, latitante a Panama. «Voglio solo andare a casa e abbracciare le mie bambine», ha detto Tarantini lasciando Poggio Reale nella notte. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altra città, altra inchiesta con sempre politici coinvolti. Ci spostiamo a Parma, dove ieri è stato inferto un altro duro colpo alla giunta capeggiata da Pietro Vignali, sindaco civico di centrodestra, sostenuto anche da PDL e UDC. Ieri le manette dopo le proteste dei mesi scorsi dei cittadini, proteste che sicuramente ricorderete. A Parma c'è la nostra Raffaella Calandra. Raffaella. Sì, l'orologio del Palazzo del Governatore nel centro di Parma suona i rintocchi di quella che potrebbe essere l'ultima giornata dell'amministrazione comunale. Questa almeno la sensazione diffusa in città, dove dopo i ripetuti cicloni giudiziari e le rinnovate proteste, come dicevi, la linea della resistenza del sindaco Pietro Vignali potrebbe scricchiolare, anche se lui ancora ieri ripete di voler andare avanti. Dopo il vertice notturno nel ristorante Le Tre Ville, per oggi sono previste riunioni della sua lista civica e della maggioranza, prima della riunione di capigruppo della commissione bilancio, fulcro dorente di questo caso Parma, fatto di debiti pubblici e presunte tangenti come quelle contestate all'assessore Bernini per le mense scolastiche. Ma questo è solo il più recente e pare non ultimo capitolo di un'indagine che ha toccato molti settori dell'amministrazione pubblica, a cominciare dal verde, dove si contestano tra l'altro roseti pagati migliaia di euro e mai sbocciati. Una vicenda seguita direttamente da Hassan Bassi della cooperativa Il Cigno Verde, che si occupa proprio di questo. Sentiamo. Piano piano lavori che fino all'anno prima erano gestiti direttamente dalle cooperative sociali venivano spostati su dei privati. Che tipo di lavori? Tutti i lavori che venivano definiti in emergenza, dalla sostituzione di un rubinetto di una fontana all'installazione di una panchina, da una potatura urgente, piccoli lavori che però avevano grossi margini di guadagno dai numeri che noi vedevamo, cioè lavori che fino all'anno prima andavano in manutenzione ordinaria, adesso venivano spostati su urgenze, su una manutenzione straordinaria, quindi con dei prezzi molto più alti. E anche per tutte queste spese l'approvazione del bilancio il 29 sarà il rubicone del sindaco Vignali, che in città però pare muoversi come un fantasma. E da Parma per ora è tutto. Le 13:16 nella prima parte del nostro GR abbiamo parlato di economia, delle parole rassicuranti pronunciate dalla cancelliera Angela Merkel sulla Grecia. È sulla buona strada, ha detto. Questa sera la Merkel incontrerà il premier greco Papandreou, borsa intanto col segno più. E poi c'è la situazione interna con Berlusconi e Tremonti, che dovrebbero incontrarsi oggi nel primo pomeriggio, il faccia a faccia della schiarita. Tra poco parleremo degli operai della Fiat in piazza Roma, traffico in tilt, Alemanno ha chiesto di fermarli. Parleremo anche del sud in recessione, il rapporto Svimez conferma 25% di disoccupati e rischio tsunami demografico. Ancora una buona giornata da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo da Roma, dalla manifestazione degli operai di Termini Imerese per le vie del centro città. Traffico in tilt questa mattina, intervento del sindaco Alemanno. Gli operai sono in attesa di un incontro che si svolgerà nel primo pomeriggio al Ministero dello Sviluppo. Ci racconta tutto in diretta Andrea Viali. Andrea. Sì, è così. Anna Rita, ha mandato in tilt il traffico nella zona di Piazza Venezia e Via del Corso questa mattina. La protesta degli operai Fiat di Termini Imerese sono arrivati in centinaia a Roma, come dicevi, in vista dell'incontro che si terrà nel pomeriggio al Ministero dello Sviluppo, incontro nel quale si parlerà del futuro dello stabilimento siciliano, dove la Fiat in lingotto cesserà le attività a fine anno, almeno questo ha annunciato. Gli operai hanno sfilato in corteo guidati dal segretario della FIOM, quindi dai metalmeccanici della CGIL Landini e dal sindaco di Termini Burrafato, le forze dell'ordine hanno chiuso una parte del centro storico e la circolazione stradale naturalmente ne ha risentito. Questa è una situazione alla quale Roma è in qualche modo abituata, succede spesso, ma questa volta è insorto il primo cittadino. Alemanno ha chiesto a prefetto e questore di intervenire per bloccare la manifestazione e mettere fine ai disagi che in realtà non sono durati molto. Da più di un'ora il traffico è tornato ai livelli di sempre, gli operai di Termini stanno manifestando in modo assolutamente pacifico di fronte a Montecitorio, in questo momento da qui da Montecitorio vi sto parlando, in attesa di spostarsi poi più tardi, dicevamo, al Ministero dello Sviluppo, dove si deciderà in parte il loro futuro. Anna Rita. Grazie Andrea, e dunque lo avete sentito, Termini Imerese che potrebbe chiudere, un sud che arranca, un sud che è per il secondo anno in stagnazione, lo conferma il rapporto Svimez presentato oggi. Nei prossimi 20 anni gli over 75 nel mezzogiorno passeranno dall'attuale 8,3% al 18,4%, oltre 2 milioni di giovani in meno entro il 2050. Questo vuol dire che per ogni giovane presente al sud ci saranno 4 anziani. Più anziani e più giovani disoccupati nel quadro dipinto dallo Svimez. Un giovane su 3 nel 2010 non lavorava, con un tasso di disoccupazione che ha raggiunto dunque il 25%. Il commento del direttore Svimez Riccardo Padovani. Noi pensiamo sia necessaria anche una modifica del modello di specializzazione nazionale del Sud con l'inserimento in settori nuovi, a iniziare dall'energia, dalle nuove energie rinnovabili, dalla logistica e così via. Se non si dà soluzione a questo aspetto, che il problema della disoccupazione purtroppo è destinato a permanere e ad aggravare. E allora, secondo lo Svimez, è necessario investire 60,7 miliardi tra grandi infrastrutture di trasporto e logistica, da dedicare al potenziamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e della statale Ionica, alla realizzazione di nuove tratte interne alla Sicilia e il ponte sullo Stretto. Francesco Marinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Blitz della Guardia di Finanza a Napoli contro l'evasione fiscale, accertamenti e sequestri di beni per oltre 31 milioni di euro, tra cui ville e case di lusso nel capoluogo, a Capri e in altre località turistiche. E allora noi siamo al nostro appuntamento, la rubrica quotidiana Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Nel 2010 l'Agenzia delle Entrate ha scoperto evasioni internazionali per 5 miliardi e mezzo di euro. In due casi ha recuperato oltre 390 milioni di tasse sottratte al fisco e portate all'estero. Il fenomeno della cosiddetta esterovestizione, attraverso il quale un contribuente italiano assume solo in via formale la residenza fiscale all'estero per sfuggire al fisco, ha molteplici sfaccettature, come spiega Paolo Valerio Barbantini, capo settore grandi contribuenti dell'Agenzia delle Entrate. Non è riconducibile a un'unica tipologia di contribuente e né deve essere effettivamente attribuita ai casi noti, non so, in persone fisiche come personaggi noti dello spettacolo piuttosto che sportivi. In realtà questo è un fenomeno che va a toccare sia imprese multinazionali, società con attività localizzate unicamente nel territorio, quindi imprese italiane, piccoli imprenditori, grandi imprese, grandi contribuenti. Per stanare questi evasori le amministrazioni fiscali di diversi paesi sono in collegamento fra loro e collaborano scambiando le informazioni in loro possesso. Ma ancora non basta, anche perché dalla Svizzera, per esempio, arrivano segnali chiari che il fenomeno risulta in aumento. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. VIP indagati per evasione fiscale. Ieri la notizia dell'indagine sulla cantante Marcella Bella, un'evasione fiscale da circa 2 milioni e mezzo di euro. Oggi è arrivato il chiarimento della stessa cantante. La mia posizione fiscale, ha detto Marcella Bella, è assolutamente regolare ed è già stata chiarita con l'ufficio imposte. Anche la magistratura, nella quale ho piena fiducia, dice Marcella Bella, non potrà far altro che chiarire tutto. Noi ci spostiamo all'estero. Google ergo sum, la battaglia di un giornalista sud-sudanese per assicurare lo spazio che merita all'ultima nazione africana. Ci sono volute più di 6 settimane di campagna, ma alla fine l'ultima nazione del mondo è apparsa anche sulle mappe elettroniche di Google. Il Sud Sudan, con capitale Juba, 54esimo stato africano nato lo scorso 9 luglio, dopo oltre 30 anni di guerra conclusa con un accordo di secessione da Khartoum, è ora regolarmente incastrato, senza sbocco sul mare, tra 6 nazioni grandi come Congo, Etiopia e ovviamente il Sudan al nord. Per ottenere il suo posto sulla più diffusa piattaforma di cartografia elettronica del mondo, ha dovuto combattere un'altra battaglia, per fortuna incruenta. Il merito va al giornalista sudsudanese John Tanza Mabuzu, che da Washington ha raccolto in pochi giorni una petizione elettronica firmata da 1600 persone. L'ha portata a change.org, ovviamente un social network dedicato alle petizioni popolari. Apparire sulle mappe elettroniche rafforza il senso di appartenenza di migliaia di giovani che anche in quello che è uno dei paesi più poveri dell'Africa navigano attraverso cybercaffè o connessioni satellitari. Ora che il neonato stato africano è su Google, anche gli altri si adeguano. Spiega Tanza Mabuzu. Succederà sicuramente presto anche alla home page del nostro Ministero degli Affari Esteri, dove il Sudan, unito, che non esiste più, è ancora indicato come il più grande paese dell'Africa, in una mappa che attende urgenti ritocchi. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Giovedì compie 80 anni Anita Ekberg, la grande diva della dolce vita, vive in completa solitudine nel reparto di lungodegenza di una clinica dei Castelli Romani. L'ha intervistata Fabrizio Roncone, giornalista del Corriere della Sera. Il suo racconto al microfono di Adriana Fracchia. La cercavo per fargli un'intervista per i suoi 80 anni che compie giovedì e a un certo punto è stato abbastanza sorprendente non riuscire a trovarla perché non era nella sua villa di Genzano, nessuno aveva più sue notizie e per un paio di giorni ci siamo dovuti un po' esercitare in un lavoro di intelligence per riuscire a trovarla. Poi alla fine sono finito insieme al fotografo Claudio Guaitoli in questa clinica dei Castelli Romani a Nemi e l'abbiamo trovata su al 10° piano. Abbiamo trovato l'ultima diva del non italiana, del pianeta, è la diva della dolce vita, del film probabilmente più famoso della storia del cinema. E l'abbiamo trovata seduta su una sedia a rotelle, così come è stata poi fotografata con questa sua vestaglia, questa sua solitudine estrema, un femore rotto un anno fa, l'altro rotto un mese fa, la terapia di riabilitazione, questo reparto di lungodegenza e tuttavia lei è ancora molto, molto Anita Ekberg. Parliamo di moda, della settimana della moda a Milano che si conclude oggi con 8.196 operatori, più 6% rispetto all'edizione del settembre 2010. A Paola Bottelli del Sole 24 Ore, che ringraziamo, abbiamo chiesto proprio un bilancio in tempi di crisi. Ma io direi che è un bilancio piuttosto positivo perché si sono visti grossi sforzi creativi sulle passerelle, soprattutto il fatto di avere presentato così tanti tessuti stampati, che significa a grandi fiori, a forma di arpaggi, a righe, a zigzag e quant'altro, tendenzialmente dovrebbe invogliare un po' le consumatrici finali ad acquistare. Si sa che molte donne si vestono prevalentemente di nero e hanno un po' meno le fantasie appese nei loro armadi. Questo potrebbe stimolare per la prossima primavera estate forse un po' più di shopping, che soprattutto nella vecchia Europa non guasterebbe. Lo stato di salute del Made in Italy è buono? Lo stato di salute del Made in Italy è buono per le aziende più strutturate, ma siccome le aziende sono tante, sono circa 80.000, è chiaro che qui a Milano hanno sfilato un'ottantina di aziende, le altre ad arrivare a 80.000 non è che sia tutto facile per gli altri, insomma, quindi c'è molto da rimboccarsi le maniche per tutti, come in tutti i settori dell'economia in questo momento. Grazie a Paola Bottelli del Sole 24 Ore. Noi chiudiamo con il calcio. Stasera torna la Champions con Inter e Napoli, che si giocano già un bel pezzo del loro futuro europeo. Appena la seconda giornata della Champions, ma per Inter e Napoli è già tempo di verdetti, forse senza appello. L'Inter, timonata da Ranieri, deve mollare a Mosca contro il CSKA l'ultima zavorra della gestione Gasperini, cioè il KO casalingo contro il Trabzonspor, che complica il cammino europeo dei nerazzurri, privi di Forlan per il noto pasticciaccio regolamentare, dell'infortunato Schneider e anche di Ranocchia. Unica consolazione, per Mosca passò anche il trionfale cammino europeo verso la Coppa dell'Inter di Mourinho. Ranieri, baciato da altra sorte, non si aspetta sconti. Sarà una partita difficile, impegnativa, perché lo sono tutte le squadre russe, difficili ed impegnative. Prova del 9 anche per il Napoli, dopo il pari all'esordio a Manchester col City, ecco il Villarreal con Pepito Rossi in dubbio, che l'anno scorso cacciò i partenopei dall'Europa League. Stavolta i tre punti sono d'obbligo, anche per dare un senso a quel turnover cui Mazzarri è ricorso, pagando dazio in campionato. Io e il presidente abbiamo detto, finché ci sarà la Champions, la prima priorità è la Champions. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione curata e condotta da Anna Rita D'Ambrosio. Grazie regia a Pietro Lacorte. Vi lasciamo in compagnia di Italia in Controluce. Il GR torna alle 14. GR 24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.